Terzo anello ad alta voce, Lord Jim di Joseph Conrad. Fino all'ultimo momento i fuochi della riva occidentale bruciarono con le loro fiamme chiare e luminose, finché la piena luce del giorno non fu su di loro. E fu allora che Brown vide in un capannello di figure colorate immobili fra le prime case un uomo in abiti europei, tutto vestito di bianco e con un casco in testa. «È lui! Guardi! Guardi!» disse Cornelius con voce eccitata. Tutti gli uomini di Brown erano balzati in piedi e si affollavano alle sue spalle a guardare con occhi spenti. La massa colorata si chiuse attorno al bianco e indietreggiò due volte prima che egli riuscisse a liberarsi di loro e ad avanzare lentamente da solo. Brown rimase in piedi sul ceppo finché Jim, che scompariva a tratti fra le macchie di cespugli spinosi, non ebbe quasi raggiunto il fossato. Allora saltò giù e scese verso di lui per incontrarlo sul suo terreno. So che Brown odiò Jim a prima vista. Le vaghe speranze che aveva nutrito svanirono immediatamente. Questo non era l'uomo che aveva sognato. Lo odiò per questo e lo maledisse in cuor suo. Lui, che era lì con la sua camicia di flanella a scacchi, con le maniche tagliate al gomito, con la barba grigia, col viso scavato e cotto dal sole, maledisse la gioventù e la disinvoltura dell'altro, i suoi occhi limpidi e la tranquillità del suo portamento. «Chi è lei?» chiese infine Jim, parlando con il suo tono consueto. «Mi chiamo Brown», rispose l'altro ad alta voce. «Capitano Brown». «E lei?» Ma Jim, dopo una breve pausa, proseguì quietamente, come se non avesse sentito. «Che cosa l'ha spinta a venire qui?» «Lei vuole sapere», rispose Brown amaramente, «e io non ho nessuna difficoltà a dirglielo. La fame. E lei perché è venuto qui?» A questo punto ebbe un balzo, disse Brown, raccontandomi l'esordio di questa strana conversazione fra loro, separati solo dal letto fangoso di un fossato, ma lontanissimi per il modo in cui concepivano la vita e i rapporti con tutto il genere umano. A questo punto ebbe un balzo e diventò rosso in faccia, troppo potente per subire domande, suppongo. Gli dissi che se mi considerava un uomo morto con cui si poteva prendere delle libertà, anche lui non stava molto meglio. Lassù avevo un uomo che lo teneva costantemente sotto tiro e che aspettava solo un mio segno. Ma non c'era nulla di cui stupirsi. Era venuto di sua spontanea volontà. «Riconosciamo, dissi, che siamo uomini morti tutti e due e parliamo partendo da questo, da pari a pari. Davanti alla morte siamo tutti uguali», dissi. Sì, volevo parlargli, ma non ero lì a supplicarlo di salvarmi. I miei compagni erano quello che erano, uomini come lui comunque. Tutto quello che volevamo da lui era che venisse avanti in nome del diavolo e che la facessimo finita. «Maledizione», gli dissi, mentre se ne stava lì impalato. «Non c'è bisogno che venga qui ogni giorno col binocolo a contare quanti siamo rimasti in piedi. Andiamo, porti qui la sua folla di ossessi, oppure ci lasci uscire. Andare a morire di fame in mare. Una volta lei era un bianco, anche se adesso non fa che parlare di questa come della sua gente, continua a ripetere che lei è uno di loro. Davvero? Ma che diavolo ci ricava? Che cosa ci ha trovato qui di così prezioso? Non pretenderà che si sia noi ad attaccare, vero? Siete 200 contro 1. Non vorrete certo che noi scendiamo fuori allo scoperto. Ah, ma le prometto che vi daremo del filo da torcere. Lei mi dice che ho aggredito vilmente della gente inoffensiva. Che mi importa se è inoffensiva quando io devo starmene qui a morire di fame? Ma io non sono un vigliacco. Non lo sia neanche lei. Porti qui i suoi. O per tutti i diavoli faremo in modo di mandare all'altro mondo insieme a noi una buona metà della sua inoffensiva città in una nuvola di fumo. Thank you. Nel raccontarmi la scena, Brown aveva un aspetto terribile. Quest'uomo ridotto a un mucchio d'ossa tormentate, tutto raggomitolato, con la faccia sulle ginocchia, su di un povero letto in una catapecchia, e la testa che si alzava per guardarmi con un'espressione di maligno trionfo. Gli ho detto proprio così. Sapevo cosa dire, continuò con voce flebile. Ma subito, con incredibile rapidità, si lanciò ad esprimere tutta la sua rabbia in un torrente di parole piene di disprezzo. Non finiremo a vagabondare per la foresta come tanti scheletri, per poi cadere a uno a farci mangiare dalle formiche prima ancora di essere morti. Oh no, è quello che vi meritate, disse lui. E che cosa si merita lei? Urlai io. Lei se ne sta qui, rintanato, a riempirsi la bocca di discorsi sulla responsabilità, sulle vite innocenti, sui suoi maledetti doveri? Sa di me qualcosa di più di quanto io sappia di lei? Io sono venuto qui in cerca di cibo, ha capito? Cibo da metterci in pancia. E lei invece perché è venuto? Cos'è venuto a cercare qui? Non le chiediamo altro che di batterci o di lasciarci passare per tornare da dove siamo venuti. Con lei mi batterei subito, dice lui, accarezzandosi i baffetti. E io mi lascerei ammazzare senza muovere un dito, dissi. Per spiccare il salto, questo posto un altro è lo stesso. Sono stufo di questa iella schifosa. Ma sarebbe troppo facile. Ho i miei uomini sulla mia stessa barca. E per Dio, io non sono il tipo che salta fuori quando si avvicina il pericolo, lasciando gli altri in una maledetta trappola, dissi. Rimase a riflettere per un po', e quindi mi chiese che cosa avevo fatto nel mondo là fuori, dice accennando con la testa in direzione della foce, per avere addosso tutta questa fregola. Siamo venuti qui a raccontarci la storia della nostra vita, gli domandai. Cominci lei allora. No? Beh, comunque non credo che mi interessi. Se la tenga. So che non è migliore della mia. Io ho avuto la mia vita come lei, anche se lei parla come uno di quegli esseri che dovrebbero avere le ali per continuare a volare senza scendere a toccare questa sporca terra. Certo, è sporca. Io le ali non le ho. Sono qui perché per una volta in vita mia ho avuto paura. Vuole sapere di che cosa? Della galera. È una cosa che mi terrorizza, lo ammetto, se può farle piacere. Non le chiederò che cosa l'ha spaventata fino a farla scappare in questo buco infernale dove mi pare che abbia trovato la manna. Lei ha questa fortuna e io la mia. Il privilegio di chiederle il favore di ammazzarmi subito o di lasciarmi passare per andare a morire di fame a modo mio. Il suo corpo sfinito era scosso da un'eccitazione così forte, così orgogliosa, così malevola, che pareva avere scacciato la morte in attesa dentro la capanna. Il cadavere del suo folle amor proprio si levò dai suoi stracci e dalla sua miseria, come dai tenebrosi orrori della tomba. È impossibile dire quanto abbia mentito allora a Jim, quanto mentisse a me in quel momento, e quanto a se stesso, sempre. Passandosi una mano livida sulla barba ispida, mi raccontava dal suo disgustoso giaciglio come stesse cercando di raggirare, stanare, centrare quel maledetto individuo, puro come una verginella con la puzza sotto il naso. Ammise che non era un tipo da lasciarsi spaventare, ma c'era un varco, largo come una strada, per infilarsi in quella sua anima da due soldi e farla schiattare, per Dio. Non penso che il suo sguardo sia penetrato molto al di là di quel varco e sembrò perplesso da ciò che vide, perché più di una volta interruppe la narrazione per esclamare: «Quasi mi sfuggì! Non riuscivo a capirlo veramente. Chi era?» E dopo avermi guardato torvamente, proseguiva con il suo tono trionfante e beffardo. La conversazione dei due attraverso il fossato mi appare adesso come una sorta di duello fra i più mortali che il fato avesse osservato con la fredda consapevolezza della fine. No, non fece schiattare l'anima di Jim, ma mi sbaglio e come se non riuscì a far assaggiare lo spirito di lui da cui egli, Brown, era così remoto, tutta l'asprezza di quella lotta. Quell'uomo era uno degli emissari con i quali il mondo cui aveva rinunciato l'inseguiva nel suo rifugio. Uomini bianchi di quel fuori dove lui non si era considerato degno di vivere, e adesso uno di loro lo aveva raggiunto. Una minaccia, un trauma, un pericolo per la sua opera. Immagino che fosse questa nota di tristezza, venata di risentimento e rassegnazione, a trapelare dalle poche parole dette da Jim e a sconcertare tanto Brown nel tentativo di capire la sua personalità. Quando chiesi a Jim, con una sorta di franchezza brutale e disperata, se anche lui, parlando sinceramente, non capiva che quando intorno tutto è buio e si tratta di salvarsi la vita, non importa quanti sono quelli che ci vanno di mezzo, 3, 30 o 300, fu come se gli si fosse avvicinato un demonio e gli avesse suggerito quelle parole in un orecchio. Lo feci sussultare, mi disse orgogliosamente Brown. Smise subito di fare il sostenuto con me. Se ne stette lì in silenzio e rimase a guardare a terra con la faccia scura, senza alzare mai gli occhi. Domandò a Jim se proprio non ricordasse nessun episodio equivoco nella sua vita, visto che era così severo con un uomo come lui, che cercava solo di cavarsi da una trappola mortale con il primo mezzo che si trovava fra le mani e via di questo passo. E in mezzo a tante rozze frasi trovò la maniera di rammentargli, con grande sottigliezza e discrezione, che erano uomini dello stesso sangue, con esperienze forse analoghe, e di fare qualche inquietante allusione a una possibile colpa comune, a una conoscenza segreta, legame delle loro menti e dei loro cuori. All'interno del vasto irregolare cerchio delle foreste, rotto in due punti dal luccichio del fiume, regnava il silenzio. «Prometti di lasciare la costa?» chiese Jim. Brown alzò la mano e subito la lasciò cadere con un gesto di rassegnazione che accettava l'inevitabile. «E di cedere le armi?» proseguì Jim. Brown si rizzò a sedere e lo fissò come se avesse voluto incenerirlo con lo sguardo. «Cedere le armi?» «Oh no, le armi e gli stracci che ho addosso sono tutto quello che ho al mondo, oltre a qualche altro fucile a retrocarica che ho a bordo. E spero di vendere tutto nel Madagascar se riuscirò ad arrivarci, mendicando il passaggio alle navi che incontrerò». Jim non rispose. Infine, gettando via la sferza che teneva in mano, disse, quasi parlando fra sé, «Non so se ne ho il potere». «Non sa se ne ha il potere? E poco fa voleva che io cedessi le armi. Questa è proprio bella!» esclamò Brown. «E se a lei dicessero una cosa e poi non la rispettassero con me?» Quindi aggiunse in tono molto più calmo. «Credo proprio che lei abbia il potere, altrimenti che senso avrebbe questa nostra conversazione? E perché mai sarebbe venuto fin qui? Per passare il tempo?» «Benissimo!» disse Jim, levando improvvisamente la testa dopo un lungo silenzio. «Avrà via libera o guerra aperta?» Girò i tacchi e si allontanò. Da questo momento gli eventi si susseguono senza un attimo di sosta, fluendo dai cuori degli uomini come un corso d'acqua da una sorgente oscura, e fra loro vediamo Jim, soprattutto attraverso gli occhi di Tambi Tam. Anche la ragazza l'aveva seguito con gli occhi, ma la sua vita è troppo intrecciata a quella di lui, con la sua passione, la sua meraviglia, la sua rabbia, e soprattutto con la sua paura e il suo amore che non perdona. Mentre del suo fedele servitore, che come tutti gli altri non aveva capito, rimane solo la devozione. Una devozione e una fede così forti nel suo signore che persino lo stupore si smorza in una sorta di triste accettazione di una sconfitta misteriosa. Egli ha occhi solo per uno e attraverso tutta la confusione del suo sbigottimento mantiene la sua aria vigile, obbediente, attenta. Il suo padrone tornò dal colloquio con gli uomini bianchi, camminando lentamente verso lo steccato sulla strada. Tutti si rallegrarono nel vederlo tornare, perché durante la sua assenza avevano temuto non solo che fosse ucciso, ma anche ciò che ne sarebbe seguito. Jim entrò in una delle case dove si era ritirato il vecchio Doramin e rimase solo per parecchio tempo con il capo della colonia Bugie. Discussero indubbiamente della condotta da seguire, ma nessuno presenziò la conversazione. Solo Tambi Tam, che si era tenuto più vicino alla porta che poté, udì il suo padrone dire: «Sì, farò sapere al popolo che questo è ciò che voglio, ma ho parlato con te, Doramin, prima che con chiunque altro, e da solo, perché tu conosci il mio cuore come io conosco il tuo e il grande desiderio che hai in esso, e tu sai pure che non ho altro pensiero che il bene del popolo». Nessuno sapeva che cosa avrebbe fatto il loro uomo bianco. Alcuni osservarono che la situazione era peggiore della guerra contro Sheriff Ali. Allora molti non si preoccupavano, mentre adesso avevano tutti qualcosa da perdere. Tutti notarono con interesse il movimento delle canoe che facevano la spola fra le due parti della città. Un paio di barche da guerra bugi erano ancorate in mezzo al fiume a sua protezione e un filo di fumo usciva dalla poppa di ciascuna. Gli uomini a bordo stavano cuocendo il riso del pasto di mezzogiorno quando Jim, dopo aver parlato con Brown e Doramin, attraversò il fiume ed entrò nel suo forte tramite il canale di accesso. All'interno la folla gli si accalcò intorno a tal punto che riuscì con difficoltà a farsi strada verso casa. Prima non lo avevano visto perché al suo arrivo durante la notte aveva scambiato solo poche parole con la ragazza che gli era scesa incontro fino all'imbarcadero ed era quindi andato immediatamente a raggiungere i capi e i guerrieri sull'altra riva. La gente lo salutava con alti clamori. Una vecchia suscitò l'ilarità di tutti, aprendosi forsennatamente un varco fino a lui e intimandogli con tono di rimprovero di fare attenzione che i suoi due figli, che erano con Doramin, non avessero a soffrire per mano dei banditi. Molti degli astanti cercarono di allontanarla, ma ella si divincolò e gridò: «Lasciatevi parlare! Che cosa sento, musulmani? Questa risata è fuori luogo, non sono dei banditi crudeli e sanguinari pronti a uccidere!» «Lasciatela stare», disse Jim, e quando si fece un improvviso silenzio aggiunse lentamente: «Tutti saranno al sicuro». Entrò in casa prima che si spegnessero il grande sospiro di sollievo e i forti mormorii di soddisfazione. Senza alcun dubbio, era deciso a lasciare via libera Brown perché se ne tornasse verso il mare. Il destino gli si stava mettendo contro e gli forzava la mano. Per la prima volta dovette affermare la propria volontà davanti a un'esplicita opposizione. «Ci furono molte discussioni e dapprima il mio padrone rimase in silenzio», disse Tambitam. «Venne l'oscurità e io accesi le candele sulla tavola lunga. I capi erano seduti su entrambi i lati e la signora rimase alla destra del mio padrone. Quando cominciò a parlare, quell'inconsueta difficoltà parve rafforzarlo ancor di più nella sua decisione. Gli uomini bianchi attendevano la sua risposta sulla collina. Il loro capo gli aveva parlato nella lingua della sua gente, chiarendo molte cose difficili da spiegare in un altro idioma. Erano uomini traviati che le sofferenze avevano reso insensibili alle differenze fra torto e ragione. Era vero che c'erano già state delle perdite di vite umane, ma perché perderne altre? Egli dichiarò a coloro che lo ascoltavano, ai capi riuniti del popolo, che il loro bene era il suo bene, le loro perdite le sue perdite, il loro lutto il suo lutto. Volse lo sguardo su quelle facce serie e intente e disse loro di ricordare che avevano combattuto e lavorato fianco a fianco. Essi conoscevano il suo coraggio, e qui fu interrotto da un mormorio, e sapevano che non li aveva mai ingannati. Da molti anni viveva insieme a loro. Egli amava molto quella terra e la gente che l'abitava. Era pronto a rispondere con la propria vita se avessero avuto di che pentirsi per avere fatto scappare quegli uomini bianchi con la barba. Erano malvagi, ma anche il destino era stato malvagio con loro. E lui, Jim, aveva mai dato loro un cattivo consiglio? Aveva mai portato sofferenze al popolo con le sue parole? Lui era persuaso che lasciare andare per la loro strada questi bianchi e quelli che erano con loro fosse la cosa migliore. Sarebbe stato un piccolo dono. A voi, che mi avete messo alla prova e che conoscete la mia sincerità, chiedo di permetter loro di andare. Si volse verso Doramin. Il vecchio Nakoda non si mosse. «Allora», disse Jim, «richiama Dain Waris, tuo figlio e amico mio, perché in questa faccenda non sarò io il capo».